Quando Gesù terminò questi discorsi, partì dalla Galilea e si incamminò verso il territorio della Giudea, al di là del Giordano. Lo seguirono folle numerose e lì operò guarigioni. Si avvicinarono a lui alcuni farisei per metterlo alla prova e gli domandarono: «È lecito ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?» Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore fin da principio maschio e femmina li fece, e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla propria moglie, e così i due diventeranno una sola carne, in modo che non sono più due, ma una sola carne. Perciò quello che Dio ha congiunto, l'uomo non separi». Gli dissero: «Perché dunque Mosè comandò di dare il libello del ripudio e così rimandarla?» Rispose loro: «Mosè, per la vostra durezza di cuore, concesse a voi di ripudiare le vostre mogli, ma all'inizio non è stato così. Ora io vi dico, chi ripudia la propria moglie se non per impudicizia e sposa un'altra, commette adulterio». Gli dicono i discepoli: «Se tale è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie, non conviene sposarsi». Egli disse loro: «Non tutti comprendono questo discorso, ma soltanto coloro ai quali è dato. Vi sono infatti eunuchi che nacquero così dal seno della madre, e vi sono eunuchi i quali furono resi tali dagli uomini, e vi sono eunuchi che si resero tali da sé per il regno dei cieli. Chi può comprendere, comprenda». Allora furono presentati a lui dei bambini affinché pregasse, imponendo su di loro le mani. I discepoli però gli sgridavano, ma Gesù disse: «Lasciate stare, non impedite che i bambini vengano a me. Di tali, infatti, è il regno dei cieli». E imposte le mani su di loro, partì di là. Ed ecco, un tale gli si avvicinò e disse: «Maestro, che cosa debbo fare di bene per acquistare la vita eterna?» Egli a lui: «Perché mi interroghi sul buono? Uno solo è il buono. Se però vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli dice: «Quali?» Gesù rispose: «Sono: non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non dirai falsa testimonianza, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Gli dice il giovane: «Tutte queste cose le ho osservate, che cosa ancora mi manca?» Gesù a lui: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». All'udir ciò, il giovane se ne andò afflitto, poiché aveva molte ricchezze. Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ancora vi dico, è più facile che un cammello entri per la cruna di un ago che un ricco nel regno di Dio». All'udir ciò, i discepoli rimasero sbigottiti e domandarono: «Chi dunque riuscirà a salvarsi?» Fissando su di loro lo sguardo, Gesù rispose: «Presso gli uomini ciò non è possibile, ma tutto è possibile presso Dio». Allora Pietro prese la parola e gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque avremo?» Gesù rispose loro: «In verità vi dico, voi che mi avete seguito, nella rigenerazione, quando il Figlio dell'uomo sederà sul suo trono di gloria, sederete anche voi su 12 troni, a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque ha lasciato case o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie o figli, o campi, per il mio nome, riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna.